Sezione 14 di Nuove Odi Barbare di Giosuè Carducci. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Raffaella. Per le nozze di mia figlia. O nata quando sulla mia povera casa passava come uccel profugo la speranza e io disdegnoso battea le porte dell'avvenire, or che il piè saldo fermai sul termine cui, combattendo, valsi raggiungere, e rauchi squittiscon d'attorno i pappagalli lusingatori, tu, mia colomba, t'involi, trepida il nuovo nido voli a contessere, oltre Appennino, nel nativo aere dolce dei colli toschi. Va con l'amore, va con la gioia, va con la fede candida. L'umide pupille fise al vel fuggente, la mia camena tace e ripensa. Ripensa i giorni quando tu, parvola, con lievi fiori sotto le acace, ed ella, reggendoti a mano, fantasmi e forme spiava in cielo. Ripensa i giorni quando alla morbida tua chioma intorno rogge strisciavano le strofe contro agli oligarchi librate e al vulgo vile d'Italia. E tu crescevi, pensosa vergine, quand'ella prese d'assalto intrepida i clivi dell'arte e piantovvi la sua bandiera garibaldina. Riguarda e pensa. Degli anni il tramite teco fia dolce forse ritessere e risognare i cari sogni nel blando riso dei figli tuoi? O forse meglio giova combattere fino a che l'ora sacra richiamine? Allora, o mia figlia, nessuna me, Beatrice, né cieli attende. Allora, al passo che Omero ellenico e il cristiano Dante passarono, mi scorga il tuo sguardo soave, la nota voce tua m'accompagni. Fine della sezione 14. Registrazione di Raffaella.